Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Soprattutto una campagna di comunicazione che vuole aiutare le donne a trovare la forza di denunciare laddove siano vittime di stalking o di violenza, attraverso la possibilità di telefonare al numero di pubblica utilità al 1522 e quindi poter rilanciare anche la conoscenza e la diffusione del 1522, che ha rappresentato un punto di riferimento importante per tante donne. Molto importante questo numero, il 1522, l'avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il numero che sarà attivo per le donne che vogliono denunciare appunto stalking o violenza. Sono stati presentati oggi questi due nuovi spot a Palazzo Chigi, una specie di pubblicità progresso, insomma, per pubblicizzare appunto il numero 1522. C'era la sottosegretaria, avete sentito, la Presidente del Consiglio Maria Elena Boschi, e anche Lucia Annibali, che sapete è diventata simbolo, no, della violenza contro le donne, l'avvocata che è stata sfregiata e che ha subito un sacco di interventi e continuerà a farli. E ci occuperemo naturalmente, questo nella ricostruzione della giornata, di nuovo tornerò a parlarvene. E tra i temi di questa sera invece parleremo della morte di Totò Riina. Con lui, dice Alfano, l'Italia è un paese migliore. Con la morte di lui l'Italia è un paese migliore, e capiremo però quanti misteri si è portato nella tomba, e persino anche il suo enorme tesoro di cui si parla, di cui si vagheggia, no? Che fine avrà fatto, a quanto ammonterà. Ci occuperemo poi anche di politica. Siamo praticamente a due giorni dal ballottaggio che si terrà a Ostia, in un clima davvero molto teso. L'ultima intimidazione è stata questo portone incendiato del circolo del PD. E poi torneremo anche a parlare di calcio, perché oggi Ventura ha detto: sì, sono molto dispiaciuto, però la verità non sta da una parte sola. Insomma, un sacco di cose anche per finire questa settimana qui a Effetto Notte. Vi racconterò tra poco in sintesi la giornata, e poi cominciamo con i vari argomenti, i vari ospiti. Per i vostri commenti, lo sapete, no? Ormai c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure riflessioni e considerazioni le potete scrivere al numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Allora, sentiamo che giornata è stata. La morte di Totò Riina, domani l'autopsia sul corpo del capo di Cosa Nostra, la CEI dice impossibili funerali pubblici, e per l'autopsia si ipotizza l'omicidio colposo, è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Barcellona, la mente degli attentati era un informatore dei servizi antiterrorismo. Conti pubblici, Gentiloni all'Unione Europea dice stiamo crescendo, ma Bruxelles prepara il richiamo. E il presidente della Banca Centrale Europea convince i banchieri tedeschi, ancora stimoli monetari per l'Europa. Il voto a Ostia, ancora intimidazioni, a fuoco il portone del circolo PD. Centrosinistra, Fassino domani vede Pisapia, ma per campo progressista serve la discontinuità. La sentenza della Cassazione, nei casi di violenza contro le donne sono valide anche le querele non scritte. E arrivano due nuovi spot presentati a Palazzo Chigi per pubblicizzare il numero antiviolenza sulle donne, che è il 1522. Banche, Schierita su Carige, Malacalza e Volpi firmano per l'aumento. E per il calcio parla Ventura, le sconfitte non hanno una sola verità, e comunque sarò il primo tifoso dell'Italia. Partiamo quindi dalla morte di Totò Riina, è morto appunto questa notte, domani ci sarà l'autopsia, nessun funerale pubblico, ma come cambiano adesso gli equilibri mafiosi? La riorganizzazione era cominciata da tempo, e ora la morte di colui che fino alla fine, anche dal carcere duro, è rimasto il capo dei capi, accelera la ricerca dei nuovi equilibri. Cosa Nostra entra in una nuova delicata fase con la scomparsa di Totò Riina, l'uomo che dichiarò guerra allo Stato, ma che, con quella stagione di stragi, commise anche il suo più grosso errore, analizza ora il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi. Tra i capi mandamento le consultazioni sono in atto già da tempo per una nuova convocazione della cupola, mai più riunita dopo il 93, cioè dall'arresto proprio di Riina. Due le strade per la definizione dei nuovi equilibri, indica il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi. O una gestione collegiale dei vertici, o un tentativo di qualcuno di forzare la mano. Nell'un caso avremo una stagione di politica silente di Cosa Nostra, o uno scontro. Nella geografia delle famiglie palermitane, tre i nomi che più si impongono: Giuseppe Guttadauro, Gaetano Scotto e Giuseppe Grizzaffi, mentre resta tuttora la latitante l'ultimo padrino, il trapanese Matteo Messina Denaro, criticato però da Riina perché pensava solo a sé. Totò Ucurtu muore con i suoi segreti, su cui però si continua ad indagare in fascicoli aperti a Palermo, Caltanissetta e Firenze, come ricorda la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi. Le responsabilità di chi fuori dalla mafia ha in qualche modo usato, si è fatto usare. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torniamo naturalmente, vi dicevo, a parlare di Riina, perché anche per disporre l'autopsia sulla salma del boss mafioso, il PM di Parma, Umberto Ausiello, è notizia di poco fa, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. Il fascicolo è a carico di ignoti e di conseguenza ha informato del procedimento in quanto persone offese la moglie di Riina, Antonina Bagarella, e i figli Maria Concetta, Giuseppe, Lucia e Giovanni. E a proposito di mafia, si conclude questa sera la campagna elettorale dei Vileni ad Ostia, municipio sciolto per mafia. Poche ore e si chiuderà una campagna elettorale segnata da intimidazioni, minacce, ma anche da tante manifestazioni di solidarietà. È quella per il minisindaco di Ostia, il presidente del 10° municipio di Roma, commissariato 2 anni fa per infiltrazioni mafiose. L'ultimo episodio sul quale la magistratura indaga è il rogo del circolo PD del litorale romano avvenuto nella notte da parte di ignoti. Poche ore dopo, il corteo contro la criminalità promosso dal sindacato giornalisti e dall'associazione Antimafia Libera. Il PD non si fa intimorire né minacciare, ha avvertito il segretario Renzi, e solidarietà ai Dem è arrivata da tutte le forze politiche capitoline, che alle 18 si sono date appuntamento ad Ostia per un sit-in di fronte alla sede del PD. Esercito e forze dell'ordine intanto sono pronte ad una vigilanza rafforzata di seggi e urne, in particolare a Nuova Ostia, litorale di Ponente, le zone più condizionate dalla presenza della criminalità organizzata. E sarà, lo ricordiamo, un duello tutto al femminile tra Monica Picca per il centrodestra e Giuliana Di Pillo per i 5 Stelle. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E allora restiamo sulla politica e sul Movimento 5 Stelle, perché Di Maio esclude convergenze con la Lega, che da diverso tempo, diciamo così, ammicca al Movimento 5 Stelle a possibili convergenze. Di Maio le esclude, dice si vince evitando il 51% di Forza Italia e Dem che vogliono fare l'inciucio. Per quanto riguarda il centrosinistra, Fassino domani vede Pisapia incaricato di mediare con le varie forze per creare questa larga coalizione centrosinistra, ma per campo progressista serve la discontinuità e più tardi cercheremo di capire quali sono i principali punti necessari per questa discontinuità. Conti pubblici, mentre Bruxelles prepara il richiamo all'Italia sui suoi conti e mercoledì attesa la lettera con le opinioni sulla legge di bilancio, il presidente del Consiglio Gentiloni si dice ottimista per la ripresa, afferma che la crescita in Italia è molto significativa e dice di aspettarsi dall'Unione Europea che vengano riconosciuti gli sforzi italiani. E di ripresa Gentiloni ha parlato al vertice europeo di Göteborg, obiettivo della riunione creare un'offensiva contro le disuguaglianze economiche. Maggiore protezione per i lavoratori europei. I leader comunitari riuniti a Göteborg varano l'intesa sul pilastro dei diritti sociali, che ha l'obiettivo di sostenere i mercati del lavoro e i sistemi di welfare attraverso pari opportunità di accesso all'impiego, mercati dinamici e protezione sociale. Impegni lodevoli considerata l'onda montante dell'euroscetticismo, conseguenza della crisi e di una globalizzazione mal gestita, ma tutti da verificare alla prova dei fatti. Si tratta di settori questi dove le politiche restano dominio dei governi nazionali. Soddisfatto il premier Gentiloni, secondo cui senza crescita economica e investimenti per la creazione di posti di lavoro non ci sarà mai una reale equità negli impieghi. L'Italia e la Francia, che ne sono stati promotori, sono molto soddisfatti perché obiettivamente questo è un punto di forza per l'Unione Europea. Sono ottimista per la ripresa, la crescita in Italia è molto significativa, con previsioni per quest'anno che sono il doppio rispetto a qualche mese fa, va incrementata e accudita, ha aggiunto il Premier, con un occhio alle critiche di Bruxelles sul budget italiano. Il nostro bilancio accompagna questa crescita e rispetta le regole europee. Mi aspetto dall'Unione il riconoscimento di questi sforzi. Nel summit di Göteborg ha fatto capolino anche la crisi Brexit. Per raggiungere un accordo sulla prima fase dei negoziati con Regno Unito c'è ancora lavoro da fare, ha detto il Presidente della Commissione Europea, Juncker. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E borse europee piatte nel giorno dell'intervento di Mario Draghi al congresso bancario europeo di Francoforte. Il presidente della Banca Centrale Europea ha confermato che la ripresa è in corso. From the ECB's perspective, Abbiamo una crescente fiducia che la ripresa sia robusta, ma non siamo ancora al punto in cui la ripresa dell'inflazione è autosufficiente senza la nostra politica accomodante. Mario Draghi non fa un solo passo indietro, ripete che la crescita c'è, ma difende le scelte operate dalla BCE e ribadisce che il compito non è ancora finito. L'Eurotower farà quel che deve, ma anche i paesi dell'Eurozona devono fare la propria parte. E allora l'affondo. Con la ripresa in corso è arrivato il momento giusto per fare ordine in casa per quanto riguarda i conti pubblici e non semplicemente aspettare che la crescita gradualmente riduca il debito. Parlando del settore privato, il numero uno di Francoforte ha citato come caso anche quello delle imprese italiane, che hanno visto il loro coefficiente di indebitamento calare di circa 30 punti percentuali da fine 2012, tornando ai livelli di metà 2007. Per Draghi è segno che la ripresa non è avvenuta con un ritorno all'indebitamento, ma grazie alla politica monetaria. Una politica che non ha a che fare con la limitata redditività delle banche, dunque tassi bassi non hanno danneggiato gli utili degli istituti di credito e comunque, ha ricordato Draghi, il mandato della BCE è quello di garantire la stabilità dei prezzi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero, con questa notizia che arriva dalla Spagna, è una notizia esplosiva destinata a alimentare la tensione tra Madrid e gli indipendentisti catalani. Adel Baki es Satti, l'imam marocchino di Ripoll, a capo della cellula terroristica di ISIS che ha organizzato e effettuato l'attentato di Barcellona del scorso 17 agosto che causò 16 morti, era stato un informatore dei servizi segreti spagnoli. Lo hanno confermato gli stessi 007, il quotidiano del capoluogo catalano, La Vanguardia. Satti tentò di diventare un informatore, era detenuto nella prigione di Castellón, dove scontava una condanna per traffico di droga. E poi di nuovo in Italia con la sentenza della Cassazione sulla violenza contro le donne. Non serve la querela scritta per condannare chi ferisce una donna, anche accidentalmente, e poi non le presta soccorso. È sufficiente che la vittima chieda alla polizia giudiziaria di punire il colpevole senza che sia necessario un atto scritto, specie se le sue condizioni della vittima, della donna, sono gravi e richiedono l'intervento dei medici. Lo sottolinea la Cassazione condannando un marito per lesioni colpose e omissione di soccorso alla moglie che prima di essere operata aveva detto ai carabinieri che era stato lui ad averla ridotta in quel modo. E oggi, come vi dicevo all'inizio, Maria Elena Boschi, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio e la consigliera in materia di pari opportunità Lucia Annibali, hanno presentato nella sala stampa di Palazzo Chigi gli spot della nuova campagna di comunicazione per promuovere il numero 1522, numero gratuito antiviolenza e antistalking. La presentazione è avvenuta nell'ambito delle iniziative previste per il prossimo 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Occupiamoci anche di migranti. È stata trovata una soluzione per 150 migranti che da giorni stanno dando vita a una marcia di protesta per le condizioni disumane al centro di accoglienza di Cona, dove ne restano 1000. Il problema sono i grandi centri, ma da gennaio cambierà tutto, assicura Mario Morcone, capo gabinetto del Ministero dell'Interno, al microfono di Valentina Furlanetto. È tempo di smontare e ridurre fortemente le forti concentrazioni, come a Bagnoli, come a Cona, e a Mineo anziché a Crotone. A Bagnoli, dove eravamo partiti da 900, siamo a 500, a Cona eravamo a 1500, siamo a 1000, ancora troppi. Un paese come Cona non può tenere un numero così alto di migranti in un centro così grande. Questo è il problema. Ma è la indisponibilità dei comuni il problema? Lo so bene, certo, lo so bene. Gli sbarchi però sono diminuiti fortemente. Come mai allora i centri sono così sovraffollati? C'è qualcosa che non va nelle commissioni che analizzano le domande di asilo? E certo. Da gennaio entreranno in funzione una nuova composizione assieme al nuovo percorso anche giurisdizionale che, come lei sa, ha tagliato il grado di appello, cioè quello di Cassazione. Quindi con le nuove commissioni e tagliando un grado di giudizio si snelleranno le pratiche e queste persone staranno meno tempo nei centri, quindi saranno decongestionati. Sì, assolutamente sì. Da gennaio. Sì. E per chiudere il calcio, l'addio di Ventura, che ha detto oggi in un'intervista all'Ansa, ha detto: le sconfitte non hanno una sola verità. Intanto lunedì ci sarà il Consiglio federale della Federcalcio con le proposte di Tavecchio per il nuovo allenatore. Ne parleremo, intanto però aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo con il primo tema, che appunto riguarda la morte di Totò Riina. Tra pochissimo, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp. Già un ascoltatore, per esempio, fra gli altri, scrive: omicidio colposo per Riina, evidentemente i tribunali giornali non hanno niente da fare, ma perché l'autopsia è proprio un'Italia malata? E lo chiederemo tra poco all'ospite. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo allora a approfondirle alcune di queste notizie che vi ho ricordato, riassunto. Roberta Giordano sempre con voi. C'è per esempio questa ascoltatrice, perché sapete che potete sempre interagire qui a Effetto Note col numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, oppure scrivendo direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Note. Dice, scrive Silvia, ricordo come fosse ieri il dolore sordo e il profondo sgomento che provai all'indomani delle stragi di Capaci di Via D'Amelio. Sembrava di stare dentro un incubo senza fine. Non posso certo dire di essere dispiaciuta per la morte di chi ha voluto che tanto sangue innocente venisse sparso. Ne parliamo tra pochissimo. Vi ricordo che appunto i temi principali sono la morte di Totò Riina e poi Barcellona con la mente degli attentati, che era un informatore dei servizi antiterrorismo. Conti pubblici, Gentiloni e l'Unione Europea dice stiamo crescendo ma Bruxelles prepara il richiamo. E poi il voto a Aosta, ancora intimidazioni, a fuoco il portone del circolo PD. Per il calcio parla Ventura, le sconfitte non hanno una sola verità e comunque sarò il primo tifoso dell'Italia. Allora, come argomento cominciamo da una fine, quella di Totò Riina, il boss dei boss, il capo indiscusso di Cosa Nostra, che è morto nella notte, 87 anni, nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma, perché ha passato 24 anni della sua vita in carcere, al 41 bis, quindi il carcere duro, condannato a ben 26 ergastoli. Il nome di Totò Riina è legato ad alcuni dei più clamorosi attentati mafiosi, fino alle stragi di Capaci, Via D'Amelio, tant'è che veniva soprannominato la Belva. Per gli inquirenti Riina era ancora, nonostante il carcere duro, alla guida di Cosa Nostra. E a questo punto saluto Giovanni Bianconi per parlarne, giornalista del Corriere della Sera, scrittore, esperto di terrorismo, di criminalità organizzata, autore di molti libri anche sugli anni di piombo. Giovanni, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ti strappo per qualche minuto e so che ti scrivi paginate del Corriere della Sera, ma insomma, intanto, fra i vari misteri, no, che Riina si porta con sé, anche questa storia del papello e dell'accordo tra presunto trattativa tra Stato e mafia, no, su cui ancora si indaga. Quindi ci sarebbe stato uno scambio tra alcuni pezzi dello Stato e Riina e Cosa Nostra per evitare altre stragi come quella del 92 e del 93. Sì, no, quello è certamente uno dei misteri più grandi della sua storia, che comunque è un pezzo che coinvolge anche le istituzioni, coinvolge pezzi dello Stato eventualmente. Ci sono tanti indizi che portano a dire che le stragi lui le ha ordinate e fatte eseguire anche con le spalle coperte da parte di qualcun altro, per un verso, e poi per provare a ricattare lo Stato e imporre appunto nuove condizioni per la convivenza dopo. Su tutto questo c'è il processo, certamente lui non avrebbe parlato, non ha parlato da vivo, ha continuato a rivendicare il suo silenzio, e dopodiché adesso questa cosa è definitiva. Non è che da questo punto di vista la morte cambia molto, però è vero che se ne va certamente una persona che aveva questi segreti e continuava a custodirli. Senti Giovanni, sentiamo per esempio a proposito adesso di che cosa succederà dopo, no? dentro Cosa Nostra, qual è la lettura di Pietro Grasso, che è stato anche ex procuratore antimafia e adesso naturalmente Presidente del Senato? Con la sua morte però si creano dei problemi, si crea una fase di transizione, una fase di riorganizzazione dell'organizzazione che ha già dei consolidati equilibri, perché molti dei mafiosi sono usciti dal carcere dopo aver scontato le condanne del maxi processo. Penso che si dovrà stare molto attenti e seguire con attenzione le ulteriori fasi per evitare che si ricrei, si riorganizzi quella commissione provinciale di Cosa Nostra, che è l'organismo di vertice che dà estrema forza all'organizzazione. Giovanni, e poi c'è il neoprocuratore nazionale antimafia, che è Federico Caffiero De Rao, che ha detto che con la morte di Totò Riina si è chiusa un'era, quella delle stragi, ma è necessaria sempre la stessa attenzione ed efficacia nella lotta, perché è cambiata la strategia, no? L'Ndrangheta mi pare abbia un po' insegnato l'importanza di mantenere un basso livello di visibilità adesso, no? Questa è un po', diciamo, la tendenza. Certo, l'Ndrangheta e anche la mafia del dopo Riina, quella guidata da Provenzano negli 10 anni, 13 anni successivi all'arresto di Riina. E quando Provenzano è rimasto da solo dopo l'arresto non solo di Riina ma anche degli altri corleonesi, del gruppo corleonesi, Bagarella, Brusca e tutti quelli che hanno partecipato alle stragi, e lui ha adottato la cosiddetta strategia della sommersione. Però c'era sempre questo capo in carcere che in qualche modo impediva cambiamenti anche formali nella struttura dell'organizzazione senza il suo consenso. Ora questo tappo, diciamo così, di Riina e anche di Provenzano, che è mancato l'anno scorso, è morto l'anno scorso, non c'è più, e questo lascia aperto la possibilità ai mafiosi che sono tornati liberi e che sono ancora in circolazione di organizzarsi come decideranno, e le indagini dovranno dirci come. Il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, no? Il capitano, cosiddetto capitano ultimo, era stato lui ad arrestarlo il 15 gennaio del 93, no? Mettegli le manette, in un'intervista del passato al Corriere aveva detto: quella mattina quando lo arrestò, nei suoi occhi ho visto paura e viltà. Non è soltanto un uomo cattivo ma vigliacco, più vigliacco che cattivo. Nel suo sguardo, dice ancora Ultimo, c'era la paura di fronte alla legge e alla forza del popolo. Tu che impressione ne hai di quest'uomo? Cosa diresti anche da un punto di vista umano? Ma insomma, questa è la descrizione di chi se l'è trovato davanti. Certo. Gli metteva le manette ai polsi, quindi insomma, vale perché lui l'ha visto in quel momento e valgono le sensazioni che ha provato in quel momento. E tanti pentiti hanno parlato non tanto di un vigliacco quanto di un uomo subdolo, uno che ha creato tragedie, come si dice in siciliano, all'interno della stessa Cosa Nostra, per ammazzare gli amici del giorno prima, per organizzare le cene e alla fine strangolare le persone di cui non si fidava più e che lui aveva autorizzato fino al giorno prima. Lui si dice che c'è stata la guerra di mafia, in realtà è stato un sterminio che lui ha provocato contro i capi mafia palermitani fino al 1982, quando ha preso il comando di Cosa Nostra come una sorta di dittatura. Quindi se di tutto questo fa parte anche la vigliaccheria, io sinceramente non lo so. So che c'era una grande determinazione, una doppiezza e la possibilità, attraverso questa strategia della tensione nei confronti dello Stato e di morte all'interno di Cosa Nostra, di conquistare il potere che oggettivamente ha conquistato. Quindi una crudeltà comunque senza fine. La Chiesa italiana per questo ha detto niente, naturalmente, funerali in chiesa o pubblici, ci mancherebbe, non lo fecero neanche per il povero Welby, no? Che aveva voluto morire dopo mille tormenti. Insomma, però si chiedono gli ascoltatori, siccome una notizia di poco fa, che è stata disposta l'autopsia, ma con anche per omicidio colposo contro ignoti. Che cosa ti dice questa cosa, Giovanni? Perché qualcuno chiede come non mai so, l'autopsia? È una cosa strana oggettivamente, perché in realtà l'autopsia dovrebbe essere una ragione solo tecnica per consentire l'autopsia, però l'autopsia si può disporre anche senza aprire un procedimento diciamo per un reato specifico. Certo. In ipotesi si può ipotizzare, appunto, si può immaginare che chi l'ha avuto in cura e non ha fatto tutto quello che c'era da fare, però insomma, e quindi siccome bisogna fare un accertamento irripetibile, diciamo così, che non si può più fare dopo, perché poi la salma viene sepolta, e quindi bisogna avvisare perché partecipino eventualmente con i loro periti tutte le persone che hanno avuto familiari, a che fare con lui, anche i familiari. I familiari da un lato, ma come persone offese, evidentemente non sarebbe contro i familiari. Certo. Però nel momento in cui si fa contro ignoti, questo non ha più ragione d'essere. Quindi io non lo so se è vero che è contro ignoti, non so quali siano tecnicamente le ragioni di questa cosa, se è esattamente in questi termini. Certamente è una cosa un po' strana, questo, però insomma, sicuramente credo che abbia presupposti solo tecnici e non che si sospetta che qualcuno l'abbia voluto ammazzare. Giovanni, per chiudere, perché so che appunto devi lavorare, ecco. Alberto scrive: un'intera giornata a parlare di Riina, tutti quanti, inutile fare del male, di uno che fa del male, diventare una star. Però Alfano dice: da che non c'è Totò Riina, l'Italia può essere un paese migliore, nel senso, insomma, ha avuto la sua bella importanza e continua ad averla anche dopo la morte. Secondo te è vero che dopo la sua morte già, insomma, un grosso pezzo se ne va e l'Italia può essere un paese migliore? Ma io questo spero, che l'Italia fosse un paese migliore anche prima della morte di Riina. Però dico, a parte questa cosa, certamente io non lo so se lo spazio è esagerato, se stiamo parlando troppo, Quello che so è che Riina ha contribuito a cambiare il corso della storia italiana. È stata una persona che... Con la morte di Giovanni Falcone, di Borsellino, con la morte di Giovanni no? Falcone, le stragi del 92 hanno non solo tolto di mezzo quei magistrati, ma hanno inciso per esempio sulle votazioni per il Presidente della Repubblica che si stavano facendo in quei giorni e che hanno preso un'improvvisa strada anziché un'altra. Che insomma, voglio dire, la mafia ha condizionato la storia di questo paese e continua anche a condizionare. Con le stragi mafiose e con gli omicidi politici non è successo in nessun altro paese occidentale. Quindi come le Brigate Rosse l'avevano fatto negli anni 70 per altri versi, con l'omicidio Moro e tutto il resto. Quindi sono figure criminali che hanno inciso profondamente sulla storia del paese e a me personalmente non stupisce e non scandalizza che se ne parli. Non certo per farne degli eroi o delle figure. Certo. No, sei stato chiarissimo. Su questo abbiamo dato la risposta a Alberto. Grazie Giovanni Bianconi, buon lavoro allora. Grazie a voi. Ciao Giovanni. Oh, pausa adesso, voi fate le vostre riflessioni, le vostre considerazioni, scrivetele sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 e ci sentiamo veramente a momenti. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, come sempre, tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, per raccontarvi tutta la giornata, i fatti principali, tutto quello che c'è da sapere, insomma, di quello che è successo durante il giorno dall'Italia e dall'estero. E poi le interviste, gli approfondimenti, abbiamo appena parlato della morte di Totò Riina, dei misteri che porta con sé, di quella che potrebbe essere la sua eredità, anche di questa vicenda dell'autopsia. Alcuni ascoltatori dicono certo, l'autopsia è dovuta per tutti coloro che sono, perché sono persone che sono detenute, sì, ma in questo caso la cosa particolare è che si ipotizza, è collegata anche questa autopsia all'ipotesi di omicidio colposo, quindi può darsi che sia dovuto, che sia un espediente tecnico. Comunque insomma, lo stesso Giovanni Bianconi prima ci diceva che è una cosa un po' particolare, poi magari la capiremo meglio nei prossimi giorni, vedremo. Adesso ci sposteremo sulla politica italiana. Leggo anche questo messaggio di questo ascoltatore, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, domande, così anche è valido il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Dice questo ascoltatore vediamo se lo ritrovo. Dice appunto che finché non si troverà la famosa agenda rossa di Borsellino, la storia delle stragi non potrà essere mai chiusa. L'abbiamo detto che tanti misteri purtroppo rimangono. Il nostro, non soltanto il nostro in particolare, è un paese dai grandi misteri. Ora vi dicevo, tra poco la politica, vi ricordo però quali sono in genere oggi, quali sono stati i fatti principali della giornata. Per l'appunto la morte di Totò Riina, di cui abbiamo appena parlato, abbiamo detto che per l'autopsia il PM ipotizza l'omicidio colposo. Barcellona, la mente degli attentati era un informatore dei servizi antiterrorismo. Per i conti pubblici Gentiloni all'Unione Europea dice stiamo crescendo, ma Bruxelles intanto prepara la lettera di richiamo. Il voto a Ostia, ancora intimidazioni, a fuoco il portone del circolo PD. Centrosinistra, Fassino domani vede Pisapia, ne parleremo tra poco. La sentenza della Cassazione, nei casi di violenza contro le donne sono valide anche le querele non scritte e oggi a Palazzo Chigi sono stati presentati due nuovi spot per pubblicizzare il numero antiviolenza per le donne, sulle donne, che è il 1522, numero gratuito 1522. Banche schiarita su Carige, Malacalza e Volpi firmano per l'aumento e per il calcio ha parlato Venture, anche questo, di questo ci occuperemo più tardi. Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, ben ritrovata Barbara. Buonasera a tutti. Quest'ultimo giorno della settimana di Effetto Notte. Allora, quali sono i temi principali della politica italiana? Ballottaggio a Ostia di domenica, ci sarà tra due giorni. L'affannosa Mission Impossible, come abbiamo detto ieri, di Piero Fassino, che ha il compito di provare a incollare tra loro i vari pezzi per realizzare la larga coalizione centrosinistra che ha prefigurato Renzi. E poi il Movimento 5 Stelle, che ha fatto sapere attraverso Di Maio che con la Lega non sono possibili convergenze, che i corteggiamenti ripetuti della Lega non avranno alcun esito. Allora direi, Barbara, di cominciare magari dal ballottaggio di Ostia, no? Che ci sarà domenica, un appuntamento che è stato preceduto dall'aggressione alla troupe della RAI, con il conseguente poi arresto di Roberto Spada, del potente clan Spada, le manifestazioni contro tutte le mafie e per la libertà di informazione, poi quindi una campagna elettorale tesa, avvelenata, sino all'ultima intimidazione che è stato questo portone incendiato del circolo PD di Ostia. Insomma, quindi ballottaggio tra due candidate, una del Movimento 5 Stelle e una del centrodestra, che si svolge in un clima tesissimo. E tu sei di Ostia, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, Barbara. Sì, sì, in un clima tesissimo, peraltro l'intimidazione fatta al Partito Democratico è fatta a un partito che in realtà al ballottaggio non ci sarà, quindi anche questo, come dire, è un aspetto di questa vicenda abbastanza così anomalo, no? Ricordo che al ballottaggio c'è Monica Picca del Movimento 5 Stelle. Scusa, Giuliana. Sì, Giuliana Di Pillo per il Movimento 5 Stelle. E Monica Picca, sì, del centrodestra. E per Fratelli d'Italia, centrodestra. Sì. Sì. Ma comunque il dato secondo me più significativo domani, cioè quando sarà completato lo scrutinio domenica, sarà il dato sull'astensione, perché ricordiamo che ci fu una fortissima astensione al primo turno, votò meno del 50% degli elettori, intorno al 40% circa, il 40% dell'elettorato, quindi solitamente i ballottaggi diminuisce ulteriormente, perché ovviamente non essendoci più dei partiti che c'erano al primo turno, in tutti i ballottaggi il numero dei votanti diminuisce. Quindi secondo me sarà un dato interessante se dopo tutto quello che è avvenuto, appunto questo clima di intimidazione, l'arresto di Spada, ci sarà una risposta da parte dell'elettorato. Una maggiore partecipazione. Tra l'altro ricordo che per vigilare sulla sicurezza ci saranno anche agenti in borghese, una cosa abbastanza inedita. Senti, invece, per passare al Movimento 5 Stelle Lega, farei sentire prima Di Maio che cosa ha detto di ritorno dagli Stati Uniti. Più voti prenderemo noi, meno ne prenderanno loro, e se saremo la prima forza politica del paese chiederemo l'incarico di governo al Presidente della Repubblica. Ma si può governare senza alleanze? Si può governare senza alleanze, inciuci, sì. Perché il nostro sistema è fatto in modo che chi riceve l'incarico di governo si presenta al Parlamento, e se ci sono convergenze sui temi il governo si fa. E quello che dico io è che noi ci prenderemo la responsabilità di formare un governo per il Paese. Insomma, quindi convergenze con la Lega zero, ha detto, e poi bisogna vincere evitando il 51% di Forza Italia e Dem che vogliono solo il grande inciucio. Quindi è stato abbastanza chiaro, Di Maio, no? Diciamo... Posso esprimermi con un giudizio che è un po' poco piacevole, ma mi sembra una risposta un po' democristiana quella di Di Maio, devo dire. Nel senso, sì, perché ovviamente Di Maio dice, da un lato dice non ci alleiamo con la Lega, mai con la Lega, dall'altro dice ci presenteremo, qualora dovessimo risultare il primo partito e quindi ottenere l'incarico dal Capo dello Stato, presenteremo un programma, ma in Italia funziona in questo modo, cioè la Costituzione non è cambiata, ci si presenta in Parlamento quando si ha una maggioranza, e le consultazioni al Quirinale servono proprio perché il Capo dello Stato si deve fare un'idea su quale premier e quali partiti possono sostenere una maggioranza, perché poi serve la fiducia, quindi non è che si fa a turno, ognuno si presenta e presenta la sua proposta di governo e poi si vede chi ci sta. Quindi è evidente che oggi tutti dicono di non volersi alleare, a partire dai 5 Stelle, ma domani, dopo le elezioni, se nessuno otterrà il 51%, quel 51% andrà trovato in Parlamento, e i 5 Stelle, il loro inciucio o non inciucio, per usare l'espressione usata da Di Maio nei confronti del Partito Democratico e di Forza Italia, lo dovrà fare se vuole governare. Cioè, i voti vanno trovati, siamo una Repubblica parlamentare, quindi serve una maggioranza di governo, e quella maggioranza andrà trovata tra i partiti, certamente, che si ritroveranno su delle proposte di programmatiche, solitamente avviene questo. Però ecco, L'alleanza ci sarà, poi se la farà con i 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, oppure se, se la farà Lega. Con la Lega, o la farà altro. Invece con, non so, con Bersani e D'Alema o con qualcun altro, non lo so. Senti, a proposito quindi del centro-sinistra, delle alleanze, abbiamo ancora due minuti, Fassino sta facendo da pontiere, ne abbiamo parlato di questo affanno, ha visto vari Prodi, MDP è stato piuttosto gelante, diciamo, non sembra che ci siano grandi aperture, diciamo l'incontro principale, cruciale anzi, è quello con Giuliano Pisapia di Campo Progressista domani a Milano. Però un fedelissimo di Pisapia ha detto attenzione, va bene, questo Alessandro Capelli ha detto, però ci vuole discontinuità, se no non c'è alleanza. Allora vuole principalmente, dice subito ci deve essere lo ius soli, poi la coalizione deve esserci senza pezzi di centrodestra, quindi probabilmente non vogliono gli alfaniani, e poi un candidato premier che debba essere condiviso. Come commenti questo minuto e venti che ci rimane, cara Barbara? Ma che lo stesso Campo Progressista è diviso, qui siamo alle scissioni dell'atomo, rispetto a un'alleanza con il Partito Democratico o non un'alleanza. Vedremo che cosa succederà domani tra Fassino, che più che un pontiere è un pompiere per spegnere questo incendio che sta dilaniando il centrosinistra. E ripeto, io sono abbastanza scettica, non penso che ci saranno delle alleanze con i gruppi. Penso che ci potrebbero essere delle divisioni all'interno dei vari gruppi, e alcuni andranno magari con il Partito Democratico, formeranno una loro lista, però io non credo, io credo che ormai la rottura sia insanabile. Non credo anche che se dovessero portare avanti lo ius soli, così come il testamento biologico, non sarà sufficiente, perché vedo che c'è sempre un qualcosa in più, no? Adesso è diventato l'articolo 18 che va abolito l'articolo 18, cioè che va reintegrato l'articolo 18. Quindi mi sembra che sono non cose ci sia un po' insanabili. Infatti, anche Maria scrive: se si sono divisi è perché c'erano cose che non condividevano. Adesso si sono fatti la nuova legge elettorale pensando di mettere il bastone tra le ruote ai 5 Stelle, invece l'hanno messo a loro stessi. Dice, va bene. Barbara Fiammeri, buon fine settimana. E grazie. Buon fine settimana a tutti voi. Ciao Barbara. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E adesso torniamo sul calcio dopo questa settimana, diciamo, particolarmente sofferta, no? Dopo la mancata qualificazione di lunedì, il tracollo della nazionale, tutto quello che ne è conseguito, soprattutto in termini di analisi, no? Delle cause, del risultato, e quindi in particolare accuse, recriminazioni, molte pressioni sull'allenatore, sul commissario tecnico Ventura affinché si dimettesse, e anche sul presidente della Federcalcio Tavecchio affinché a sua volta facesse le valigie. Però Ventura, come sapete, ha aspettato di essere esonerato dai vertici della Federazione Calcio Italiana. Un esonero che è stato sancito dopo questa riunione della Federazione Calcio da Tavecchio con queste parole. Risentiamo. Oggi ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità delle sue, della sua collaborazione, dei suoi servizi, quindi da oggi non è più l'allenatore della nazionale italiana gioco calcio. E questo è chiaro. Io avevo commentato questa settimana che era una frase un po' questa, non abbiamo più bisogno dei suoi servizi, avrebbe potuto dire servigi, ed era ancora più una frase, un'espressione da romanzo d'appendice, insomma una storia un po' particolare. Però lo stesso Tavecchio invece su se stesso si è detto indisponibile a dimettersi. Oggi Ventura ha rilasciato un'intervista all'ANSA in cui ha detto: ero convinto di portare gli azzurri ai mondiali, provo un grande dispiacere, ma le sconfitte non hanno una sola verità. Quindi diciamo che, e qui saluto il nostro Carlo Genta. Ciao caro Carlo. Ciao Roberto, ciao a tutti. Ti sentite tutti i giorni naturalmente. Sei diventata espertissima di calcio dopo che abbiamo vissuto... Hai visto quello speciale di tre ore, psicodramma, bravo. Sì, da lì sono rimasta particolarmente segnata, come si può sentire. Carlo Genta poi lo sentite tutti i giorni a tutti i convocati, qui su Radio 24 dalle 14 alle 15. Dicevo Carlo, quindi in questa intervista Ventura all'amarezza naturale, insomma, della mancata qualificazione mondiale aggiunge anche qualche venatura polemica, no? Dice, non c'è una sola verità. Ma sì, Roberto, qualche venatura, in realtà non ha detto niente di particolare. Cioè, in momenti come questo, secondo me, ti devi anche sentire libero di tirati fuori tutti i sassi dalle scarpe, non c'è una sua responsabilità, questa è evidente, è sua, dei giocatori, però certo, anche i giocatori, potrebbe no? anche essere interessante essere chiari, no? Tanto l'esperienza è finita, è stato licenziato, è stata gestita questa cosa nel modo direi più inelegante possibile, perché tutti quanti sarebbero aspettati, come hanno fatto Lippi, che peraltro aveva vinto un mondiale nel 2010, come ha fatto Prandelli nel 2014, istantaneamente vado davanti alle telecamere e dico: da domani non sono più l'allenatore della nazionale. Questo non gli avrebbe tolto dei soldi cui Ventura ha diritto, perché difficilmente riuscirà a riciclarsi, considerata anche l'età. La reputazione è oltre 70 così. Anni. Non è gratis, è giusto che prenda quelle centinaia di migliaia di euro che gli deve la Federcalcio fino alla fine di praticamente dei mondiali cui avremmo dovuto partecipare, però insomma la forma diventa sostanza in questi casi, quindi era lecito attendersi anche un comportamento un po' diverso, e soprattutto in questo momento avrebbe potuto dire qualche verità un po' differente rispetto a al nulla che ha detto in queste dichiarazioni abbastanza ciclostilate all'ANSA. Abbiamo detto poi prenderà appunto, dicevamo, il compenso che era sui 800.000-900.000 euro, non mi ricordo, ma sì, una cifra 7, del genere. 6-7, non è quello il problema. Una cosa così, ripeto, infatti. Dici, sarebbe stato più elegante, un po' più dignitoso. Di mercato, poi certo. Su prezzi di mercato, quindi non dobbiamo fare troppa demagogia. Nel calcio si guadagnano quei soldi perché gli allenatori, i calciatori non sono lavoratori fungibili come purtroppo siamo io e te, quindi fungibili, ovviamente sulle leggi di mercato e di conseguenza i soldi che gli devono, ma è giusto, gli daranno. Senti Carlo, Tavecchio adesso sappiamo si affida a Galliani per convincere Ancelotti come prossimo allenatore della nazionale. Conte ha detto: la nazionale, ma un disastro, è difficile un mio ritorno. Tu cosa prevedi, diciamo, in tempi brevi? Guarda, è molto difficile capire. Allora, innanzitutto è rimasto presidente federale. Molti italiani avrebbero voluto, anzi la maggioranza degli italiani avrebbero voluto sentire le sue dimissioni insieme a quelle di Ventura, però al di là della pancia non c'era una soluzione immediata pronta, bisogna anche usare il cervello oltre che il cuore in casi di questo tipo. Dunque è giusto, è normale che rimanga al suo posto. Adesso dovrà prendere un grande allenatore, d'altra parte l'aveva già fatto con Conte, non dimentichiamo la che è stato scelto da Tavecchio, dici, storia Conte. Qui esatto, è stato lui ad ingaggiare Antonio Conte, dunque qualche merito gli va anche assegnato. Adesso certamente cercherà un allenatore di livello. Non so se Ancelotti, io continuo a credere che per la nazionale potrebbe essere un'idea quella di avere un allenatore part-time, lo so che è una opinione un po' bizzarra, impopolare, mai verificata almeno nel calcio, in altri sport sì. Però potrebbe essere un'idea, anche, in effetti. Ma sai, anche considerando le leggi di mercato, nessun top manager, top coach viene ad allenare la nazionale italiana per guadagnare un quarto di quello che potrebbe prendere una squadra di club. È un lavoro diverso e differente che non necessariamente richiede un impegno a tempo pieno. Carlo, a proposito di squadre di club, per i tifosi, gli appassionati di calcio che volessero un po' rifarsi, diciamo, di spirito di questo fine settimana, che partite interessanti ci sono? Domani è un grande sabato del villaggio, per fortuna, così almeno magari smettiamo di parlare di nazionale, perché domani alle 6 del pomeriggio c'è il derby di Roma tra due squadre che si stanno molto bene, almeno così era prima della pausa per la nazionale. Sono due squadre molto lanciate, sono due squadre che cercano le posizioni di Champions League, non solo a Roma che era pronosticabile all'inizio in questa posizione, ma soprattutto la Lazio con Simone Inzaghi. Parentesi, mi sorprendo come non si sia sentito il nome di questo allenatore molto giovane ed emergente per la panchina azzurra. Chiudo la parentesi qui, derby della capitale dunque domani alle 6 del pomeriggio, e poi c'è Napoli-Milan che ha una favorita d'obbligo, che è la squadra capoclassifica. Il Milan insomma va da sfavorita a Napoli, è un tormentone che si ripete, dovesse perdere, soprattutto perdere male, ricominceremmo dopo Ventura sì, Ventura no, con Montella sì, Montella no, ma è un refrain che si ripete dall'inizio della stagione. Insomma, torna allora il pallone nel fine settimana. Grazie Carlo Genta, ciao Carlo. Grazie a voi, ciao Roberto, ciao a tutti. Ciao. Oh, intanto arrivano i vostri messaggi. Nazionale arriva Ancelotti, evviva Ventura, che sventura per l'Italia, eccetera eccetera. Però direi a questo punto, mentre ecco, su quanto riguarda la politica, Marco scrive: la sindrome del tafazzismo è insito nella sinistra, troppe prime donne, ormai una guerra persa in partenza. Ovviamente sono tutti primi uomini, e ci fosse una donna. A tra poco.